Vangelo di Marco, capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo ella da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. E se li rimando a casa digiuni, verranno meno per via, e venanno alcuni che sono venuti da lontano». E i suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Ed egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra, e presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi li posero. Avevano anche alcuni piccoli pescetti, ed egli, fatta la benedizione, comandò di porre anche quelli dinanzi a loro, e mangiarono e furono saziati, ed ai pezzi avanzati si levarono 7 panieri. Or erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li licenziò, e subito, montato nella barca coi suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmunata. I farisei si recarono colà e si misero a disputar con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede ella un segno? In verità, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli, montò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Or i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano seco nella barca che un pane solo. Ed egli dava loro dei precetti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito d'Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri: «Egli è perché non abbiamo pane?» E Gesù, accortosene, disse loro: «Perché ragionate voi del non aver pane? Non riflettete e non capite voi ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? E avendo orecchie non udite? E non avete memoria alcuna? Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste?» Essi dissero: 12. «E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi levaste?» Ed essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» E vennero in Betsaida, e gli fu menato un cieco, e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, e sputatogli negli occhi, e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare, ma mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, ed egli riguardò e fu guarito, e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrar neppure nel villaggio». Poi Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo, e cammin facendo domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Gli un Giovanni Battista, altri Elia ed altri uno dei profeti». Ed egli domandò loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ed egli vietò loro severamente di dir ciò di lui ad alcuno. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il figliuolo dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risusciterebbe. E diceva queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, prese a rimproverarlo. Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». E chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: «Se un vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuolo dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo, coi suoi santi angeli. E diceva loro, in verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza.